piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Per evitare la diffusione del coronavirus serve anche mantenere la distanza di un metro gli uni dagli altri. Ed ecco che tutti si regolano di conseguenza, come i bar con i tavoli apparecchiati per uno. È utile inoltre non scambiarsi baci, abbracci e strette di mano. Servirà a non darsi una mano, una stretta di mano? Io bacio e abbraccio tutti, non mi faccio problemi. Madre e figlia, quindi comunque non ci sono problemi, direi, assolutamente. Continuerete ad abbracciarvi? Sicuramente. Lei da oggi non darà baci e abbraccio a nessuno? Da un po' che non lo faccio. Oggi voglio anticipare una porzione del problema generale che tutti stiamo condividendo, legata alle relazioni. Questa mattina naturalmente il grande affanno è per chi ha dei figli, mandarli a scuola, non mandarli a scuola, la scuola è chiusa, ma cosa si fa? Si va a lavorare, si tengono i figli. Ci sono, diciamo, delle importanti decisioni da prendere, ma vedrete che da qui a qualche giorno ci si porrà il problema di mantenere in piedi le nostre relazioni. Siano esse lecite relazioni coniugali, ma siano anche relazioni estese. Basta averci un fidanzato, una fidanzata, un amante, una frequentazione anche a distanza di un quartiere, che si fa? Se si vuole mantenere la stretta osservanza alle regole governative, bisogna stare a distanza comunque di un metro e bisogna mantenere tutte le necessarie precauzioni. Ci sta tutto, però è difficile già mantenerlo in situazioni, diciamo, di normalità, un rapporto. Non mi baci più come una volta, non ci vediamo mai, ma ti piace, ma non ti piace, stai simulando, cosa fai? E trovi scuse, e c'hai un capello addosso, c'hai un odore, cosa c'hai? Delle tracce nelle mutande. Insomma, ci sono sempre dei motivi, anche quando l'intimità, diciamo, può essere condivisa al 100%, per creare screzi. Ma pensate in questo momento in cui bisogna stare distanti a un metro. Ammesso che tutti siamo d'accordo, si sta distanti un metro, che si fa? Ci si parla un metro di distanza? E ci si bacia con la mascherina? E ci si abbraccia con la mucchina? Beh, io di questo oggi vorrei parlare. Mi sembra che gli italiani non abbiano sentito, come sempre accade, così profondamente un senso di emergenza nazionale. Io giorni fa sollevai il problema di come avrebbero reagito i gestori dei tanti siti di dating online, attività in cui noi siamo leader in Europa. Gli italiani in Europa sono i primi a incontrarsi per amori clandestini, per incontri carnali, per veloci e rapide penetrazioni attraverso i sistemi regolati da app. Dicevo, ci sarà senz'altro una flessione di questo mercato, ma che questa mattina la notizia che c'è stato un boom del 30%, si è impennato il mercato del dating online, soprattutto nel nord Italia. Approfittando delle quarantene, degli isolamenti, del fatto che non si va a lavorare, cosa hanno fatto gli italiani? Hanno incrementato la loro attività amatoria procurata attraverso applicazioni dating online. Beh, oggi io vorrei proporre una scala come spesso facciamo noi, per capire bene, questa è un'indagine sociologica importante, per cui i nostri esperti sono qui trepidanti in attesa della vostra risposta, di qual è il livello di attenzione alle norme di sicurezza suggerite, anzi indicate dal decreto appunto governativo, e la necessità comunque di mantenere in piedi delle relazioni. L'abbiamo chiamata la scala di Tantalo. Tantalo è il personaggio mitologico condannato all'inferno perché anche lui aveva compiuto un atto irriverente nel confronto degli dèi, era immerso in un lago con una pietra al collo, con alberi di frutta bellissima e succosa intorno, sofferendo una perenne fame e sete, ma come provava ad accostare la bocca all'acqua del fiume, del lago in cui era immerso, l'acqua si ritraeva. Come spingeva e tendeva le dita verso la frutta per alleviare i morsi della fame, l'albero ritraeva le sue fronde. Quindi Tantalo nell'eterno supplizio del desiderio inappagato. Ecco, noi staremo a un metro di distanza, tenderemo anche noi le bocche sitibonde e le dita rapaci, ma dovremo stare come Tantalo a un metro di distanza. 800240024, la scala di Tantalo. La scala di Tantalo. Mentre le indicazioni governative raccomandano una distanza minima di un metro tra le persone per evitare il contagio, i siti di incontri online hanno un'impennata di utilizzo del 30%. La percezione della catastrofe imminente aumenta il desiderio e il bisogno di promiscuità? Oppure ci avvieremo verso un forzato periodo di smart banking e smart intrallazzing? Oggi vogliamo sapere come cambierà il modo di vivere le vostre relazioni e la vostra intimità in ogni sua possibile manifestazione. Chiamate ora l'800 24 00 24 e diteci fino a quale livello di sicurezza state gestendo le vostre relazioni. Livello 1. Osservo rigidamente le indicazioni anticontagio anche con il mio partner. Nessun contatto di nessun tipo e distanza minima di un metro. Livello 2. Mi limito a dei contatti senza baci, ripristinando la discreta pratica del piedino e delle carezze con le palme dei piedi per i contatti. Livello 3. Frequento solo il mio partner con contatti protetti da guanti e mascherina, concedendoci fantasie erotiche a base di ammuchina. Livello 4. Il desiderio non si può imbrigliare. Continuo a baciare e a condividere piena intimità con chi voglio e approfitto del tempo libero per concedermi nuove avventure. (800) 24 0024, non vi lasciate ingannare dal tono salace e ridanciano, è un problema vero, ve ne accorgerete voi tra un po', quando la persona che vi ha giurato passione eterna vi dirà è meglio che non ci vediamo, e voi potrete sospettare che abbia altre persone, che si sia stancata di voi, che non se la senta più di continuare il rapporto con voi, farete mille domande, ma semplicemente vuole essere ligia alle regole, stare a distanza. Mi stanno arrivando citazioni, mi è arrivata la citazione dal nostro gruppo su Telegram, Melog ha parlato, una signora mi propone un testo sull'orgasmo quantico, che è qualcosa che si fa a distanza, mi sembra di capire, potrebbe essere una soluzione. Altri in maniera molto più rude mi danno dei cartelli in cui vengono suggerite delle posizioni da dover osservare in tempo di difficoltà di scambiarsi fiati promiscui, la cosiddetta more pecorum, come definivano i confessori, pare più adatta, perché non c'è il contatto delle bocche, ci si presenta solo le parti indispensabili. Ora spieghiamo i vari livelli di questo nostro scala di Tantalo. Il livello 1 è il livello delle brave persone che fanno questa sorta di atto di castità fisica e sentimentale, con io sto ligio alle regole, quindi per stare ligio alle regole parlo con il mio partner, se viviamo sotto lo stesso tetto facciamo un patto di non frequentare mezzi pubblici, di tenere sempre la mascherina, tenere sempre i guanti, insomma facciamo una vita molto riservata, un po' come si facevano i patti in altri tempi, ti sarò fedele per sempre, non guarderò più nessun'altra persona, non bacerò nessuno, e state più o meno protetti dalla vostra reciproca fiducia. Il secondo livello, evitano di baciarsi, evitano il contatto di saliva e cercano delle forme alternative di contatto, perché il contatto mantiene in vita il rapporto. Una persona ti ama, la puoi amare se poi puoi abbracciarla, puoi tenerle la mano, puoi tenertela vicino, puoi respirarne l'odore, sentire il calore del suo corpo. Oggi è tutto più difficile, però c'è sempre un metro di distanza. In questo metro si possono fare tante cose. Poi, considerato che il metro è un metro per ognuno, dovrebbe essere 2 metri al limite. Però mettiamo nel metro di distanza, che si può fare? Ci si può allungare di 1 metro. Le braccia sono più ristrette rispetto alle gambe, con le gambe si può fare un sacco di cose. Immaginate cosa potete fare di reciproco a distanza di 1 metro usando le gambe, usando i piedi. Vi potete accarezzare, potete giocare a palla a 1 metro, fare dei passaggi a 1 metro, potete fare il piedino, andate al ristorante assieme, state abbastanza a distanza, mettete la mascherina, ma sotto piedini a volontà, anche col calzino probabilmente, togliendosi la scarpa. Terzo livello, ci si concede ogni tipo di contatto fisico, naturalmente strettamente con un partner o fisso, perlomeno un partner stabilito, cercando di contenersi, però mantenendo tutti i presidi, tecnologici che permettono in questo momento di avere una maggiore sicurezza, quindi mascherina tassativa del tipo più potente, quello proprio da verniciatore industriale o da esperto in guerra batteriologica, guanti naturalmente, presidi classici nelle zone genitali, e poi a mucchina a gogo. La mucchina deve essere dappertutto, usatela come si usano quei prodotti che vengono pubblicizzati in televisione per farsi massaggi, ecco, questa roba del genere. Quarto è la generazione più sconsiderata, sono quelli che non guardano in faccia a nessuno, quelli che non si pongono problemi, sentono al di sopra di tutto e di tutti, non hanno legge, e quindi sono quelli che in questo momento incrementano le loro frequentazioni attraverso siti dating online. Non voglio criminalizzare il libero amore o la libera sessualità, ma in questo momento incontrare una persona sconosciuta si ha, oltre tutti i rischi precedenti, malattie a trasmissione sessuale, rischi vari, anche quello di prendere una persona che sta incubando il coronavirus. Considerate anche questo. Alberto, buongiorno. Alberto, lo sto chiamando naturalmente. Spero che ne so, qualcuno intervenga, perché Alberto è in linea ma non si sente. Sentiamo Tiziano. Tiziano, sono in linea, mi chiamo Tiziano, non Alberto. Alberto, c'è anche Alberto oltre Tiziano. Mm-hmm. Allora, sentiamo Tiziano, poi se becchiamo Alberto riprendiamo Alberto. Tiziano, ascoltiamo lei. In quale di queste, a questi livelli della scala di Tantalo lei si colloca innanzitutto? Grazie, buongiorno. Buongiorno. Comunque io propenderei tra il livello 1 e 2, ma non è questo che volevo dire. Se mi permette solo un attimo, volevo fare una considerazione del tutto arbitraria, personale, ma ho avuto una specie di intuizione che ringrazio di poter esporre. Secondo me, a rigor di logica, l'antiparassitario per animali, specie quelli più sofisticati, più antiodore per l'essere umano, potrebbe funzionare probabilmente anche come corona antivirus. Adesso, scusi, ma non è velenoso? Adesso non voglio entrare nei particolari, la faccio parlare che mi diverte la stravaganza. Lei pensa che l'antipulce e l'antizecche possa servire per il coronavirus, che è un virus? In minime quantità sì, poiché il virus ha bisogno di pochissimo veleno, un millesimo rispetto a quello che ha bisogno sì, ma, la pulce, lei, perché lei... è un miliardesimo di millimetro il virus. Ma lei ci ha provato, a lavarsi le mani con l'antizecca? No, no signore, è un'intuizione che ho avuto. È proprio pericoloso, potrebbe creare dei danni. Adesso se la prendesse qualcuno sul serio e si mettesse quella roba che si mette sui cani per togliere le zecche, le zecche è un bel animale, non è che sia proprio un virus, si vede, c'è un bel pungiglione e si infila dentro. L'antizecca per i virus mi sembra onestamente veramente una cosa al di fuori della possibilità di prenderla in considerazione. Comunque, se lei è convinto di questo, si consulti con chi di dovere e dica: ho avuto quest'idea. Alberto, sì, l'abbiamo preso Alberto. Allora, a che livello si colloca di questa scala? È il 4, e vorrei aggiungere che scala che avremmo dovuto prendere già da tanto tempo, e perché le nostre nascite sono zero, e poi perché il coronavirus sinceramente è la malattia dei non puliti. Per tutti allora, resto... livello 4 è quello che dice: il desiderio non si può imbrigliare, bacio, condivido la piena intimità con chi voglio, quando voglio, anzi approfitto del tempo libero per concedermene di più. Quindi lei è per una promiscuità esagerata nel momento in cui tutti raccomandano promiscuità di è un parolone, avere rapporti mi perdoni, non debbono essere promiscui, possono essere usuali. Cioè, quando entrano in contatto delle mucose è un rapporto promiscuo, è usuale o no, comunque sia c'è una possibilità di trasmissione superiore rispetto a darsi la mano, e questo è chiaro, mi sembra logico. Secondo lei nessuna delle attenzioni che vengono raccomandate possono valere per limitare un'attività, diciamo, di relazione intima con le persone? Va bene, questa è la sua convinzione. D'altronde abbiamo contemplato un punto 4, perché sappiamo ci sono persone che dicono: per me non cambia assolutamente nulla, ma ci sono persone che non si pongono nemmeno il problema, diciamo, dell'igiene sessuale, dicendo: a me che mi importa, tanto è una, la vita è una roulette, quindi è un gioco d'azzardo, e sono quelle che magari non ce l'hanno scritto proprio in faccia. Ci fermiamo un istante, a tra poco. Melog. Non so quanto possa effettivamente aiutare essere distanti soltanto un metro per prevenire il coronavirus, non so quanto effettivamente possa aver senso. Ma un metro secondo lei risolve qualcosa? Secondo me no, quindi per il momento non sono così preoccupata appunto di tenere tutti lontano un metro, due, quello che sia, però penso se uno deve stare lontano, deve stare lontano proprio, più di un metro. Io personalmente sono partita, faccio le cose che ho sempre fatto, frequento luoghi. Ma io sono a un metro da loro, non so se ce l'hanno, spero di no. Solo questo, non mi preoccupa più di tanto. Chiamate ora l'800 24 00 24 e diteci fino a quale livello di sicurezza state gestendo le vostre relazioni. Livello 1. Osservo rigidamente le indicazioni anticontagio anche con il mio partner. Nessun contatto di nessun tipo e distanza minima di un metro. Livello 2. Mi limito a dei contatti senza baci, ripristinando la discreta pratica del piedino e delle carezze con le palme dei piedi per i contatti. Livello 3. Frequento solo il mio partner con contatti protetti da guanti e mascherina, concedendoci fantasie erotiche a base di ammuchina. Livello 4. Il desiderio non si può imbrigliare. Continuo a baciare e a condividere piena intimità con chi voglio e approfitto del tempo libero per concedermi nuove avventure. ...800-24-0024, le solite maestrine dalla penna rossa hanno colpito, ci cospargiamo il capo di cenere, abbiamo scritto le palme dei piedi, le palme sono dei vegetali, ho capito, le piante dei piedi dovevamo dire, ok, ma perché invece no, smart intrallazzing è qualcosa che esiste, il smart bunging è qualcosa che esiste, cioè lasciateci divertire, le palme dei piedi, le palme non si dice, le palme sono delle piante, sono le piante dei piedi, la palma è una pianta e le piante dei piedi, si tratta di darsi carezze strusciandosi la parte sotto del piede, ci siamo divertiti a pensare una cazzata, non c'è bisogno che state lì con la penna rossa a dire le piante dei piedi, le palme dei piedi, pensa che tristezza, chi si pone su questi particolari cosa farà? Starà a 10 metri da distanza per stare tranquillo, starà lì, si guarderà intorno, anzi si metterà anche la mascherina, il parocchio per mascherarsi gli occhi. Emilio, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Allora, vediamo, la cosa da definire, vedo un po' di reticenza del pubblico, ne ragiono insieme a lei Emilio, perché mi ha detto in tonti che il mio grande moralizzatore, cioè tu l'hai buttata subito sul sesso, la gente non parla. Lasciamo perdere il sesso, non ci interessa. Pensiamo alla relazione, avrete una persona con cui vi vedete ogni tanto, ci andate al cinema, parlate del più e del meno, vi date qualche bacetto, insomma, con queste persone che tipo di precauzione prendete adesso che bisognerebbe stare tutti a casa? Emilio. Precauzioni vedo poco, nel senso che se non ci sono più relazioni tra di noi è finito il genere umano, per cui questo momento del coronavirus ha messo un po' in evidenza la solitudine nostra dell'uomo e sarà penso purtroppo ancora peggio. Però Emilio, posso dirle una cosa? Sentivo sì. I ragionamenti faccia questa mattina Maria Latelle, condividevo, diceva finalmente gli italiani sono resi conto e possono anche lavorare a distanza invece che riempire gli uffici di gente che si guarda intorno, fa muina e non fa niente, facciamoli lavorare almeno un paio di giorni alla settimana da casa, almeno avremo anche la misura di quello che lavorano, in base ai contatti e al lavoro svolto capiremo cosa fanno veramente, le strade saranno più libere, sarà più spazio, più aria per tutti. La stessa cosa vale delle relazioni, noi siamo abituati che vivere una vita relazionale significa magari il sabato sera chiudersi sul locale che sta pigiati gomito a gomito, ci si respira addosso, una totale incubo, che alle 4-5 di pomeriggio, 6 di pomeriggio una per forza andare a fare l'aperitivo, vedersi davanti dei bar col bicchiere in mano a non dirsi nulla e starsene lì a chiacchierare sperando che succeda qualcosa. Ci ha permesso questo virus di ridimensionare il valore delle nostre relazioni. Questo metro di distanza si riempie di aspettative, di attese, di desideri, di condivisioni e di, secondo me, di piccoli sotterfugi condivisi per volersi più, aver più necessità di stare assieme. Non è d'accordo lei? Ma no, non moltissimo, perché la distanza non porta alle relazioni. Ma se le dico, lei preferisce rischiare di prendersi un virus o magari con la persona con cui è sempre stata abbracciata starci a distanza di un metro? Io direi per 15 giorni, un mese, 3 mesi, 6 mesi sto a distanza di un metro, preferiamo salvarci la vita, non lo so. No, assolutamente, dobbiamo continuare a vivere. Se facciamo così, ci chiudiamo, non se ne esce. Ma allora, scusi, si vanificano tutti i decreti? Allora, no, continuiamo ad andare nei locali, decreti, andiamo al cinema, andiamo, certo, a teatro? Ma i decreti sono fatti proprio per la popolazione, cioè questa è la dimostrazione di quanto la propaganda sia devastante per l'uomo e per tutti. Scusi, però, propaganda. No, io vorrei propaganda, però se... Sì, dico, l'unica cosa da fare, non è che questi ci dicono che dobbiamo stare insieme, dobbiamo stare a casa, così sì, sono più liberi i giardini, non c'è nessuno, sono libere le strade, non c'è nessuno. Ho capito, ma gli ospedali, se gli ospedali traboccano di persone in terapia intensiva, dice, questo? Piuttosto che arrivare a quel punto, statevene a casa un pochino e state tranquilli, così sì, si fa con l'epidemia. Carità, sicuramente, un pochino però. Cioè, beh, intanto hanno detto 15 giorni, sembra che in presente casca il mondo, si spezzano i cuori, e la gente si impicca, certo. Perché 15 giorni sta senza l'amato bene. Qual è il problema? Per questo, perché tra novembre, dicembre, gennaio prossimi ci sarà un'altra emergenza. Beh, lei. Ci saranno ostetrici abbastanza. Perché nascerà un sacco di gente, secondo assolutamente me. Assolutamente sì. Beh, come è successo, si ricorda quando ci fu il blackout a New York? Ecco, bravo. La gente non fece altro che trombare, ma c'è questo senso qua, infatti. La disgrazia, nei momenti di terribili crisi, il nostro istinto di propagazione della specie aumenta. Per questo è aumentato, certo, del 30%, dice il dating online, per questa ragione. In questo caso sicuramente tra 9 mesi vedete, ci sarà una grandissima emergenza, richiameranno ostetrici, ostetriche, perché non ci saranno abbastanza. E ci siamo pianti addosso per la crescita zero, ben venga a questo punto. Allora, fantastico, il virus che non ha guardato in faccia nessuno, purtroppo anziani se ne vanno. Ma quindi dice, sì, c'è una sorta di eugenetica. Nuovi, penso un po', ecco, una sorta di eugenetica virale, oddio. Chi lo sa. Oddio, io avendo 65 anni mi grattugio un pochino le parti basse, però che devo dire, è un punto di vista. Dario, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, torniamo alla scala di Tantalo, così torniamo al tema. Ecco, sì, esatto. Definisca le categorie. Allora, io praticamente mi trovo a essere... mi rispecchio nella categoria numero 3. Allora, frequenta solo il suo partner con contatti, sì, protetti da guanti, mascherina, concedendosi fantasia erotica a base di amuchina. Beh, questo l'ho messo io. Sui guanti e mascherina metterei anche, magari no, però vabbè, diciamo che stiamo nelle protezioni con guanti e mascherina. Beh, quindi non vi baciate nemmeno? No, per baciarsi va bene tutto. Il problema è che la mia compagna è una categoria 1. Quindi ho la repulsione totale da parte sua, ho respingimento. Ma per questi giorni? E però vede, lei ha toccato una parte. Lei ha toccato una parte del problema importante. Cosa le ha comunicato da ieri la sua partner? Ah, praticamente ieri sera si è trattata di mettere a letto i bambini, così a fine giornata, e per leggere la storia, così mi cominciava a dire di stare lontano, stare un metro più lontano, no? Mi alzo, sto lì in piedi, ha letto la storia e tutto, ha cominciato anche a dirmi vai a dormire sul divano, perché comunque quello che accade quando c'è una crisi coniugale profonda, invece accade per la crisi, sì, cioè è un po' ipocondriaca, diciamo, la sua parte. Sì, quello, però questo vede Dario, è un problema, adesso non ci possiamo anche scherzare, ma è una tragedia. Lei pensi oggi quante persone sentiranno dire dalla persona che amano, che magari vorrebbero vicino in questo momento, escludiamo i lati più morbosi, vicino perché ti dà piacere aver vicino la persona a cui vuoi bene, che hai nei tuoi pensieri, vuoi tenerle la mano, vuoi soltanto andare con lei a fare una passeggiata. Siccome è ipocondriaca, dici no, guarda, per un po' stiamocene distanti. E questa è una coltellata al cuore, penso, no? Sì, è tutto un meditarsi, stare attenti a come si atteggia, come tutto per te. Io penso che la distanza. Beh, questo per un giorno bisogna vedere, il primo giorno, poi magari secondo lei cambierà oppure sembra decisa a portare avanti questa linea? Spero che cambi. Poi scusi, i bambini l'ha messi a letto, ma se li mette a letto, li accudisce tutto, non ha lo stesso problema con i bambini di vicinanza? Sì, cominciava già infatti a relazionarmi, a dirmi queste cose già in quel momento lì, quindi. Lei potrebbe far capire a questa signora, di cui capisco la preoccupazione, che la vita deve continuare, importante lavarsi bene il più possibile, evitare magari contatti troppo ravvicinati, però alla fine i bambini, se non vanno a scuola, comunque usciranno di tanto, non è che li potete tenere in casa tutto chiuso dalla mattina alla sera. Sì, sì. Però c'è questo problema, quello che dice Dario è un problema, lui ce l'ha con la moglie, ma al di là dei rapporti obbligatori, nel senso che uno tutte le sere torna a casa e condivide la casa con un'altra persona. Immaginate chi debba vedersi sporadicamente con la persona con cui si vede un paio di volte a settimana, una volta ogni tanto, si va al cinema, si chiacchiera, si fa l'amore, ecco, con queste persone cosa fa, come si comporta? Ci fermiamo un istante e riprendiamo, abbiamo Simone, camionista, che ha qualcosa da dirci, a tra poco. Melog 800240024, ci stiamo nella nostra scala di tantalo avvicinando a un problema possibile nella relazione. Non sempre fra due persone che si vedono, che si incontrano, che si frequentano, c'è lo stesso livello di percezione del rischio, del pericolo e della profilassi. In questo momento avere una relazione con una persona ipocondriaca penso che sia impossibile. Una persona che già prima dice: ti sei lavato le mani, ti sei sciacquato bene, stai attento, per favore levati le scarpe, non baciarmi, cosa hai fatto, che hai visto, e via dicendo, oggi è impossibile. Dirà: mettiti lo scafandro se vuoi vedermi. Sarebbe impossibile, per me sarebbe insostenibile una persona che ti guarda e ti osserva e dice: ti sei lavato le mani, anche perché sono una persona molto pulita. Sentiamo Simone, buongiorno. Sì, buongiorno. L'ascolto. Niente, io volevo un attimino sollevare anche il tema per le persone come me che fanno il mio mestiere, che sia il camionista. E niente, io per il lavoro che faccio mi porta ad andare in zone adesso ritenute a rischio, oppure nelle zone rosse ovviamente non si può né accedere né uscire, quello che è, citiamo. Però nella Bergamasca ci vado spesso, nel Piacentino dove non ci sono zone rosse ci vado. Io mi trovo a seguire delle direttive, che è giusto pure che si seguano in un certo modo, ma io stesso che ho una vita sociale, la mia domanda è quella, ogni volta mi trovo a farmi due conti e dice: vabbè, ci sono stato giovedì a Bergamo, allora magari evito di andare, di fare la mia vita sociale, che è quella che si svolge durante il fine settimana. Cioè lei viene visto con sospetto perché va dalle parti di Bergamo? No, a parte quello, io abito... Lei pensa che io sto lavorando con due operatori, tutti e due di Bergamo, ci sono stato fino a ieri sera insieme ai miei figli, che devo fare? Li sopprimo. Il problema non è il mio personalmente, io paradossalmente se lo prendo cercherò di affrontarlo come giusto. Però qualcuno la guarda con sospetto, dice: tu che sei camionista. No. È il tutelare magari ognuno di noi ha dei parenti anziani, visto che questo virus si accanisce più sugli anziani che... Allora ogni volta io mi trovo a rifare due conti, ok, giovedì sono stato a Bergamo 14 giorni, devo fare un auto-isolamento, tra virgolette, che può essere per me infinito affinché non rientra questa emergenza. Vabbè, certo, per lei, lei o decide che si, si mette una roulotte nel giardino o nel cortile e vive lì, e quindi finché non passa tutto il papà camionista sta lì perché viaggia. È quello che dico. Ma è comprensibile, figuriamoci, ma lei a casa ha problemi, diciamo, sua moglie, non so adesso la sua compagna, sua moglie, il suo la persona con cui non ha nessun problema. Adesso no, non ho problemi, il problema è che non vorrei io crearli. Problemi. Quindi si pone lei, però giustamente si pone lei il problema. Ma non è per me, torno a ripeterti, io posso anche aver, come dire, posso anche contrarlo il virus e si affronterà. Non vuole essere untore degli altri, giustamente. Sì, giustamente. Per evitare magari certe cose, evitare magari di trovarsi anche, perché no, sulla coscienza delle persone, che magari non passerà proprio così, però uno Simone, magari... Simone, ci sta, è il problema che abbiamo posto noi. Comunque, abbiamo tutti delle relazioni, al di là delle relazioni più personali, intime, affettive. Vediamo gente, non possiamo fare a meno di vedere gente. Come ci regoliamo se vogliamo mantenere la regola ipotetica e teorica del metro di distanza? Luca, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Nicoletti. Lei rispetto alla scala come si pone? Assolutamente alla 4. È di quelli che dice non mi importa nulla. No, più che altro contesto questo modo di misurare anche i rapporti umani, 1 metro, 90 centimetri, 1 metro e 10. Cioè riportare tutto a un concetto di controllo matematico della nostra vita mi sembra... assurdo. E però si mette nei panni delle persone chiamate dal governo, dice: mi dici delle regole che devo mettere in un decreto? Diranno: beh, dite che almeno a 1 metro di distanza si debba rimanere. Ma infatti questo è forse il problema. Cioè, che diciamo che è il raggio di uno starnuto a cui potrebbe partire il virus contaminanti, immagino, una cosa del genere. A 1 metro stai un pochino più tranquillo. Serve anche per dare una regola nei locali in cui non si può mantenere la distanza di 1 metro, devono essere chiusi, È che nei mezzi pubblici è difficile stare a un metro di distanza. Io devo passare degli autobus stamattina che comunque si erano compressi come sono compressi sempre nelle ore di punta. Ma appunto, per quello diventa una cosa completamente ipotetica, che anche la cassiera con cui ho fatto spesso sul mercato, sicuramente la sua bocca è a meno di un metro dalla mia, in quel momento mi chiedo un chino a raccogliere i miei... Allora, aspetti un attimo Luca, abbiamo Paolo. Paolo, buongiorno. Paolo. Sì, buongiorno. È stato chiamato in causa lei, lei lavora in un supermercato. Sì, esattamente, io mi riallaccio proprio perfettamente all'ultima domanda che è stata posta dall'altro interlocutore. Lei lavora in un supermercato? Io lavoro in un alla cassa di un supermercato. E come fa a stare a un metro? Quando le persone pagano, stanno più vicine? Davanti e un metro da quelle che ho dietro, perché la fila è davanti ma è anche dietro. E stanno tutti appicci, non può fare la fila di un metro di distanza alla cassa del supermercato? Però si danno le spalle, come la posizione consigliavamo noi, non è bocca contro bocca, diciamo, è bocca contro spalle, quindi se non si tossiscono in faccia forse stanno più tranquilli. Ma guardi, io le posso dire che la vita del cassiere è una roba che andrebbe vissuta per capirla. Lei però dice, in questo momento a voi non hanno dato nessuna disposizione particolare? Nessuna disposizione, se non quella di igienizzarsi le mani e basta. Non abbiamo mascherine, non abbiamo niente, le persone accedono, secondo me bisognerebbe anche regolamentare l'accesso al supermercato, in modo da poter gestire con una barriera casse efficiente il numero delle persone che sono all'interno. Hai ragione, la categoria supermercati non è stata toccata, in effetti non è stata toccata. La gente, al banco del pane c'è sempre la signora che palpeggia 20 rosette prima di comprarle, le vedo, quelle confezionate. È così come la frutta. È la frutta, massaggiano tutto prima di comprarle. E anche lì, certo. E va bene quando si mettono guanti. Sì, figuriamoci. Grazie Paolo. Massimo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, dottor Nicoletti. Io volevo parlare di un po' di quella categoria che io porrei sulla categoria 4, che al momento a Milano è spenta, ma che a volte si propaga in Italia, e sono quelle persone che frequentano le milonghe, il tango argentino. È un ballo che dà una grandissima soddisfazione, sì. Soddisfazione, le persone... Però è promiscuo, ci si struscia, è inutile. Sì, sono drogate di questo, certo. di questo ballo, io anche, e però sono inserito in gruppi dove proprio la gente si scambia le milonghe aperte. Vabbè, dai, la milonga, dai, il tango ci si sbuccia la banana, diciamo la verità, detto in termini comprensibili. Un po' sì, ma senza dubbio c'è la grande promiscuità, e purtroppo poi ci sono persone che in maniera anche secondo me incivile prendono e migrano verso province fuori della Lombardia. Lei pone il problema che esiste una promiscuità comunque non regolamentata, che chi balla il tango logicamente stai guancia a guancia, ti respiri addosso, stai strettissimo. Nessuno ha detto nelle scuole di tango, nelle milonghe, bisogna stare a un metro di distanza. Si balla il tango figurato. Mi sembra molto chiaro. Raffaella, buongiorno. Buongiorno, chiamo da Monza. Sì. Come ha detto il suo collega, non è proprio pertinente, nel senso che al momento io non ho un partner, quindi non so, però... Non ha questo problema. Non ho quel problema, però volevo dire, io sono stata 2 settimane in montagna, la settimana scorsa e quella prima, avevo già prenotato, quindi sono andata e mi sono chiesta, io vengo da una zona considerata a rischio, qui in montagna non è a rischio, ma comunque c'era gente da tutta Europa, c'era il mondo... E ci siamo ritrovati nei rifugi, alle seggiovie, tutti vicini, altro che metro. E quindi voglio capire veramente, magari il mio vicino di seggiovia aveva il coronavirus, arrivava dal Belgio, e che ne so io. Cioè, beh, allora, però magari punto... in montagna avete una sciarpa, avete un casco da sci, non lo so, siete un pochino più protetti, avete sì, la tuta e i guantoni. Cioè, nei rifugi quando si va a mangiare all'ora di pranzo anche no. Quindi lei, Raffaella, dice sembra che le profilassi sono di tipo metropolitano, chiudiamo i convegni, 2 o 3 convegni a cui dovevo andare, tavole rotonde, sono stati chiusi perché la gente, i congressisti non devono stare nella stessa stanza. Ma per carità, magari queste misure ci vogliono, io non sono un medico, non sono un chimico, non posso dire, però dico solo che evidentemente ci sono degli assembramenti in corso che vanno avanti. Adesso ovviamente il coronavirus è spuntato fuori nelle altre paesi europee, perché, mi scusi, ci sono delle comunità cinesi ben più grosse di Chinatown a Milano, e vuol dire che nessuno è andato venuto, cioè, sì, ma adesso Raffaella, però, i cinesi, scusi, siamo diventati noi, però Raffaella, i cinesi siamo diventati noi, adesso siamo noi guardati con sospetto. Quindi Raffaella segnala, dice, se andiamo nel rifugio di montagna ci scambiamo il bicchierino col Vov bollente e potremmo anche scambiarci qualcos'altro. Vabbè, ci abbiamo provato, le relazioni mi sembra di capire che ancora non sono molto compromesse.